Palla Spicchi con Carlo Genta. Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona. Eh sì signori, si va a Barcellona grazie a Siena, che non rappresenta secondo me il basket italiano, rappresenta se stessa in tutta la sua grandezza, ma tant'è. Saltiamo tutti insieme volentieri su questo carro e andiamo a Barcellona. Abbiamo ancora gli occhi pieni di Siena, di quello che ha fatto in questa serie memorabile. Abbiamo ancora il canto della verbena nelle orecchie. Tutto quasi il canto della verbena, magnifico. Costan Peterson, buongiorno. Ciao ragazzi, ciao Carlo, amici sportivi, sì, grande impresa, grande complimenti impresa. A loro, tanto di cappello. Non c'è dubbio, dopo lungo inseguimento l'ho chiamato, non mi rispondeva, poi c'è chi l'aveva visto nei dintorni di Parigi vestito da Monaco, l'ho visto in televisione su Eurosport, finalmente l'ho trovato, è tornato. Sasha Giorgiovic, ciao. Ciao Carlo, ciao coach. Ciao, dai. Senti, Coach, partiamo da questa impresa di Siena. Una serie tutta intera memorabile, perché partivi da un buco profondissimo, no? Meno 48 e poi batti tre volte l'Olympiakos e poi mille imprese in questa impresa. Ma guarda, prima di commentare su questo, bisogna anche dire che la serie fra Panathinaikos e Barcellona, due delle tre squadre insieme a Siena più forte d'Europa, si incontra in quarti finale. Barcellona che non andrà a Barcellona per giocare, sì, tornerà a casa. C'è una serie incredibile anche quella lì, ma da perdere meno 48 la prima partita, 89-41, e poi vincere tre in fila e in faccia a quelle che dicono quelle meno 48 lasciate il segno, non si riprendono, eccetera, così, cioè, hanno smentito tutti con una tre partite con veramente l'occhio del tigre, come si dice. Complimenti, sono stati non bravi di più, bravissimi, ma hanno letteralmente 29 punti nel primo quarto per dare il messaggio, ecco dove siete capitati fra di noi. E alla fine facce di Siena molto convinte, le facce di Olympiakos, parlavano fra di loro, alzavano le braccia, le sopracciglia, eccetera, lingua del corpo, body language totalmente sbagliato. Sasha, che ne pensi? Sono assolutamente d'accordo con coach, body language assolutamente sbagliato, mi sono fissato in alcuni giocatori più rappresentativi come Teodosic, che certamente aveva un infortunio alla caviglia, no? Che non gli permetteva di giocare tutto il suo pallacanestro migliore, però ho visto alcune cose, anche Spanulis che è sempre concentrato, sempre con una faccia positiva, ieri veramente anche lui si è reso. Una squadra fatta per vincere quest'anno, spesi tantissimi soldi, preso Spanulis da Panathinaikos, Teodosic come MVP della Eurolega l'anno scorso, Nesterovic, tanti veterani, quindi squadra fatta per questo tipo di partite. Hanno fatto flop, perché secondo me questo è una grandissima impresa da parte di Siena. Per me Siena, posso anche sbilanciarmi, siccome mi sono sbilanciato tante altre volte, penso che andrà a vincere addirittura questa Eurolega, perché secondo me è matura, pronta, cattiva, occhi del tigre, come dice coach, c'ha tutto in questo momento, profondità, grandezza dei corpi, imprevedibilità, difesa, tutto. Dall'altra parte Olympiakos, che aveva altrettanto tutto, ma è una squadra lunghissima che non c'aveva dei ruoli ben precisi in ogni partita fatti, quindi tanto divagamento. Coach Ico cercava il quintetto giusto, non è riuscito a trovarlo in tutte le tre partite che hanno perso, e quello un po' mi è sorpreso, perché Olympiakos non doveva cambiare la sua maniera di giocare, doveva essere fedele alla loro identità, sì. E quello che ha fatto Siena ha fatto esattamente quello, gli ha fatto cambiare tutto e gli ha fatto cercare la maniera migliore di giocare contro Siena, quindi questa è una grandissima, grandissima qualità dei senesi. Sono rimasti forse un po' prigionieri di quella prima stranissima partita. Cosa tu accennavi a quella che noi abbiamo gli occhi pieni di Siena, no? Dicevo prima, però la notizia più grande è appunto il Barcellona, campione di tutto, padrone d'Europa, padrone di casa in queste Final Four, che non andrà a queste Final Four e perde tre volte in fila con il Panathinaikos. Tre papere in fila, ma ti dico l'ironia delle ironie delle ironie. Real Madrid, che ha avuto veramente grossi problemi contro Barcellona quest'anno, gioca la quinta in casa, cioè sì. Diciamo che vincono. Va Real Madrid a giocare la Final Four a Barcellona e Barcellona non ci sarà, cioè questo è un rovescio di fronte. E poi anche l'altra serie, sono state quattro serie per me estremamente interessanti. Maccabi Tel Aviv che va lì a sbancare prima vittoria, poi due vittorie in casa, anche loro non favoritissime per la Final Four, ci vanno a gonfie vele, quindi veramente quarti finali più memorabili da quando io seguo l'Eurolega. Coach, vorrei dire una cosa, sono d'accordo con te per Real Madrid e Barcellona, un fatto veramente strano, soprattutto quando sappiamo che Coach Messina ha lasciato Real Madrid prima di questi quarti di finale, e quindi anche quello è stato un colpo diciamo forte in contra a Real Madrid, dove loro sono riusciti a reagire in una maniera incredibile con Coach Molin, che gli diamo tutto il credito, è un grandissimo in bocca al lupo e complimenti per il lavoro fatto, perché secondo me ha fatto una impresa straordinaria. Ma d'altra parte Maccabi li ho visti nella prima partita di Eurolega a Belgrado contro Partizan, mi hanno letteralmente impressionato, lo sapevo che arrivavano a questo punto, mi sono sbilanciato a dire a tutti quanti che quella è la squadra da Final Four, dove tutti mi guardavano strano, ma invece è così, perché si vedeva la mano di Coach Blatt, che io rispetto moltissimo e ritengo uno tra i tre più forti d'Europa, perché mi sono trovato nell'altra panchina giocando un quarto di finale contro Benetton con Milano, dove ho visto tutta la sua bravura, imprevedibilità, tatticismo e tutto quello, e poi una persona straordinaria. Io Blatt lo rispetto tantissimo, sono contento per lui, perché si merita questa Final Four dopo certo. Anche lui dopo anni di andare, no, nel Dinamo, piuttosto sì. Nell'FS Pilsen, adesso veramente nel posto giusto. Ha raccolto un po' di soldi in giro, poi è tornato a casa. È tornato a casa e lì veramente si sente a Dio, e gioca una pallacanestro bellissima. Sì, sì. Coach, adesso per chiudere, tutti a dire Panathinaikos, Siena sarà la vera finale di questa Eurolega. Dall'altra parte, come sappiamo, Maccabi più X, magari Real Madrid. Sarà la vera finale oppure no? Ah, io penso di sì, veramente sono due squadre formidabili, per me loro sono le prime due in Europa adesso, a dover incontrarsi prima veramente è un delitto, ok, però anche Barcellona, la Panathinaikos è un delitto, però il calendario è quello che è, non prende favorite, ok, quindi è successo così, però hai ragione, questa è la finale e Siena deve vedersi con l'allenatore più vincente nella storia della Eurolega, Obradovic, 7 titoli vinti, almeno 7, ormai ho perso il conteggio di lui, ma veramente un allenatore formidabile, squadra formidabile, abbiamo visto anche loro contro il Barcellona, il linguaggio del corpo e delle facce era eloquente, quindi grandissima squadra, la partita dell'anno assolutamente. Grazie coach, buon lavoro. Ciao ragazzi, ciao, un abbraccio. Ciao coach, un bacione. Ogni tanto sento dire che l'allenatore conta il giusto, ma solo Obradovic poteva eliminare questo Barça. Tra l'altro ti voleva al Panathinaikos, o sbaglio? Sì, mi voleva un anno dove io... L'hai detto tu, quindi non mi sì, sbaglio. Sì, non ne potevo più, ho preso un anno sabbatico sbagliando, però ero sincero verso di lui, gli ho detto guarda, se non vado a giocare per te veramente ce l'ho le scatole piene di pallacanestro, e mi sono fermato per un anno perché avevo le altre cose in testa, un po' di infortuni da curare, e poi sono tornato a giocare altri due anni. È un mio carissimo amico, l'allenatore per me è il più forte da sempre in Europa, però ovviamente ci sono dei dettagli, no, che lo consacrano in questa maniera, però siccome l'ho avuto, lo conosco e tutto, c'è una personalità, un asso in manico sempre in più nella pallacanestro, sa tutto, personaggio, carattere, carisma, positività nel suo grito, nell'urlo, nel tutti lo sanno perché lo fa e come... È veramente un allenatore ben voluto da tutti, nonostante tante bronche, tanti cazziattoni e tutto, sempre li fa per il bene della squadra, e quello rispettano tutti i suoi giocatori. Senti, invece possiamo dire che un altro tuo connazionale, allenatore della tua nazionale, possiamo dire che questa è una grande sconfitta di Dusan Ivković? Possiamo dirlo, sinceramente, con calma, senza che nessuno se lo prenda personalmente. Secondo me sì, perché l'Olympiacos è la sua squadra. Sai, quando vedi gli allenatori, no? Siccome se voi mi parlate di Ettore Messina, io guardo subito Virtus Bologna. Se mi parlate di Mike D'Antoni, Milano o Benetton, per dire Benetton, perché Milano non ha saputo trattenerlo per gli altri 4 anni. Però se mi parlate di Jelko Panathinaikos, di Duda Ivković, è Olympiacos la sua squadra, perché nel 97 vinse la ultima Coppa dei Campioni, tra l'altro giocando con Barcellona una finale a Roma, dove io ero il giocatore di Barcellona, e ci hanno sconfitti in questa finale con grandissimo David Rivers, che all'epoca giocava Olympiacos, e tanti altri, però lui era l'emblema di quella squadra. Sì, è sconfitta sua perché è fatta questa squadra per vincere l'Eurolega, fatta con tanti investimenti, però. Sì, però quest'anno veramente tanti giocatori, tanti... anche troppi, secondo me. Beh, anche l'anno scorso Linas Gleiza e Childress e Quattrini come se piovesse, Quattrini sì, come se piovesse, però l'anno scorso era più, si sapevano i ruoli, più erano più anche dall'inizio dell'anno fino alla fine si sapevano i ruoli di Linas Gleiza o Childress, Teodosic e Papa Lucas. Da tutti questi è uscito Teodosic come il più carismatico, il più bravo, che ha avuto un'annata strepitosa. Quest'anno invece no, quest'anno si è trovato con tanti giocatori, si è trovato tanti alti e bassi, Teodosi stesso, e non ha trovato la miglior pallacanestro, quella che lo distingue tra gli altri. Alessio, provincia di Treviso, primo ascoltatore di oggi, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, buongiorno a Sasha anche. Buongiorno. Volevo fare una domanda, visto alle luci della qualificazione di Siena, che è stata strepitosa, perché onestamente non se l'aspettava nessuno, e per quanto poco anche di quella della mia povera Benetton. Ma perché povera? Perché povera? No, no, più che altro ho visto il livello dell'Eurocup solo per questo motivo, sicuramente. Cosa pensate di quello che è forse il movimento più defraudato della storia della pallacanestro? Perché quest'anno, onestamente, forse è il campionato più con più livellato verso il basso che io possa ricordare, onestamente. Ma livellato verso il basso, verso l'alto, sono discorsi, sono un po' accademici. C'è Pianigiani che dice che questo è il campionato più difficile d'Europa, altri la pensano in maniera differente. Certamente è un campionato che ha un padrone, e questo non è mai un bene per il movimento. Non è mai un bene sapere alla prima pagina del libro che chi sarà l'assassino, no Sasha? No, non è un bene, è un bene per Siena, perché quest'anno più che gli altri anni si poteva concentrare sull'esito e risultato nell'Eurolega, perché ovviamente domina, se perde una partita, due o quattro, le dà uguale in campionato italiano, va avanti per la sua strada nell'Eurolega e trova queste forze, trova queste motivazioni dal quale parla sempre coach Pianigiani questi duelli con le squadre di Eurolega. Queste otto squadre di Eurolega sono del livello straordinario. Parliamo di un Maccabi o di una Barcellona che ha vinto contro Lakers all'inizio della stagione, o con una tale CSKA che è andata a vincere nel suolo americano contro Milwaukee, mi pare, o con un'altra squadra. Quindi dobbiamo dare tantissimo credito a queste squadre di Eurolega che fanno enormi investimenti: Olympiacos, Panathinaikos, CSKA, Siena stessa, Barcellona, Real Madrid anche. Quindi ci sono 6-7, anche 8 squadre in Eurolega che tranquillamente possono fare un bellissimo ruolo anche nel campionato NBA. E lo dico, lo dico con tantissima calma e realtà e analisi anche più profonda. D'altra parte, Eurocup e Eurolega sono due competizioni diverse, il livello di Eurolega è altissimo, soprattutto di queste 8 squadre, nei confronti delle 8 squadre di Eurocup, però chissà il vincitore dell'Eurocup con uno o due ritocchi l'anno prossimo può diventare una delle 8 squadre nel futuro. Quindi a questo punto parlo di Benetton o di Unix Kazan, che sono le due squadre, diciamo, più sulla carta più forti di questa Final Four di Eurocup. speriamo che sia Benetton per tutto quello che ha fatto fino adesso la famiglia Benetton per il movimento non solo di pallacanestro italiano, certo, ma anche per il movimento sportivo italiano, anche l'europeo, e gli auguro veramente di, con quel titolo magari alzato da parte di un grandissimo Massimo Buleri che ha ritrovato la serenità, possa rimanere nella pallacanestro tanti altri anni con il nome di Benetton sulle magliette, perché la pallacanestro italiana, ma anche l'europea, ha bisogno del Benetton, ha bisogno del Ghirada, ha bisogno di quei giovani che nascono da lì e tutta questa cultura sportiva che nasce da Treviso. Non c'è dubbio Sasha che sia così. Io dubito seriamente che possa ripensarci, possa tornare indietro, perché questo non accadrà. Però vedi gli parliamo nel 16-17 di aprile, diciamo non andare via, quindi ti prego non andare. No, ma la tanto bistrattata pallacanestro italiana alla fine porta Siena Final Four di Eurolega, Treviso Final Four di Eurocup. Alla fine mi sembra una stagione positiva, una stagione luminosa. C'è un messaggio che Daniele da Bologna, un tema di questi giorni: Siena come l'Inter, bravissimi gli italiani, ma gli italiani quanti sono e quanto contano? Guardate le greche e le spagnole. Io continuo a non riuscire a fare queste distinzioni. Io vedo grandi squadre, grandi giocatori al massimo livello professionistico. In fondo il passaporto non conta poi tanto. No, non conta più poi tanto, perché non mi potete dire che in un attaccamento alla maglia di Siena di un Sean Stonrook è il più piccolo di attaccamento alla maglia di Benetton di un Ricky Pittis. Sì, sì, sì. Per dire due nomi carismatici di diverse epoche, però è quello lì il concetto. Fai diventare uno come Sean Stonrook l'emblema della tua squadra, guadagni tanto nella credibilità verso gli americani che vengono, come nuovi, verso credibilità dentro dell'ambiente di Siena, verso i tifosi stessi, verso tutti noi, quindi noi cioè, no, quando poi, scusa, voi mi parlate di Siena, io subito prima Terrell McIntyre, adesso Sean Stonrook. Ma basta andare in giro con te per Milano, no? per capire quanto la gente di Milano, quanto tu sia stato un simbolo anche di Milano. E mi rendo orgoglioso, sinceramente, no? Mi rendo orgoglioso di questo fatto, e ci ritengo giusto che io sia di Milano e mi ritengo un tifoso adesso di Olimpia come gli altri. Però sì, è vero, con modestia falsa da parte, ho lasciato qualcosa come un giocatore di Milano, la gente si ricorda di quello, mi fa tantissimo piacere, mi rendo orgoglioso. Quindi dico, è una politica societaria che il direttore, il presidente Minucci, l'ha detto in una intervista sulla Gazzetta alcun tempo fa, dove ha detto: non importa il passaporto, se americano è quello, importa il progetto e come lo, certo, come lo fai vedere negli occhi dei tuoi propri tifosi, nell'ambiente, nel tutto. Quindi loro sono riusciti a fare quello, e dal tempi di Vanderpool tu dici chapeau. Sì, sì, sì, contano gli uomini e contano i giocatori, i passaporti secondo me molto di meno se parliamo di sport professionistico. Mario da Mantova, subito la palla a lui perché ride un po'. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Aspetto da una settimana veramente, che ho chiamato bene il discorso, poi per questione di tempo non sono riuscito ad esporre il mio pensiero. Mi spiace, tanti ci chiamano, dica. Lo ripeto, io bene il discorso avrei detto che la vittoria di gara 2 di Siena era figlia del meno 48. Secondo me, se Siena perdeva di 12-15 punti, probabilmente gara 2 non riusciva a portarla a casa, perché il meno 48 è stato uno schiaffo talmente forte che una squadra che ha gli attributi reagisce. Perdere di 12 o di 15 punti avrebbe creato nella squadra una reazione un pochettino più soft, invece sì, quel gap gli ha portato su degli stimoli che gli ha portato poi a vincere gara 2, e avrei detto che secondo me avrebbe fatto un 2-0 anche in casa. Sì. Sono in ritardo di una settimana e voglio sapere cosa ne pensavate voi. Io sono completamente d'accordo con te, aggiungerei solo un'altra cosa: se Siena avesse perso di 1-2 avremmo parlato tutti di alcuni errori arbitrali o alcune cose o l'ambiente o qualcosina, e quindi si toglieva quella concentrazione su se stessi e su dobbiamo fare di più, dobbiamo reagire noi, non appoggiarci su altre scuse o sull'arbitraggio o qualsiasi altra cosa che possa succedere nei campi come a Atene. Quindi da un ex atleta e allenatore ti dico che sono d'accordo con te, è molto più facile motivare la propria squadra dopo le batoste di questo genere che dopo le partite magari perse di 1-2 o come dici te 12 punti, perché lì c'è sempre se avessimo fatto questo, se avessi fatto sarebbe stato di qua di là, e quindi non si concentrerebbero così facilmente i giocatori. Grande idea perdere di 48. Grandissimo, secondo me è stato pianificato dagli anni 2006-2007. Minucci e Pianigiani stavano già pianificando, di 50, esatto, poi... sicuramente, perché hanno detto vogliamo fare anche questa esperienza perché ci serve per costruire il palazzo, avere 8.000 tifosi in più e reagire. Sì, senti, sì. Cosa vuoi dire a un tuo ex compagno, un tuo ex giocatore da allenatore come Massimo Bulleri? Guarda, sono talmente contento per lui, perché prima ho visto la partita, l'ho commentata per Eurosport. Sì. Due, mi sono divertito tanto, e poi l'ho commentata in questa maniera: secondo me è la partita più matura di un veterano come lo è in questa maniera, ma la partita più matura da un giocatore simbolo anche della pallacanestro italiana, se vogliamo, come lo è Massimo Bulleri. Quindi non so cosa ne pensa lui, però gli faccio i miei più sinceri complimenti, gli auguro di alzare quella coppa da capitano, perché se lo merito per tutto quello che ha dato nella pallacanestro, e lui lo sa per tutto quello che ha passato sia qua a Milano e per tutta la sua storia vittoriosa che lo rende unico nel questo anno. Anche per tutte le sue sofferenze, o no, Bullo? Buonasera, buongiorno a tutti. Chiaramente da sorridere. Saluto e ringrazio Sasha per quello che ha appena detto, e anche per quello che ha detto mercoledì sera in televisione, che ho avuto insomma modo di sentire in diretta, che eravamo spogliatori, abbiamo la televisione, eccetera, eccetera. Niente, poi ho mandato un messaggino, ma probabilmente non ho più il numero giusto, che okay, ma non è questo. No, ho cambiato il numero proprio per non avere queste tentazioni. Ho problemi anch'io, niente di particolare. Nulla, sono in certo senso anche emozionato di sentire un personaggio del calibro di Sasha, che è stato uno dei più grandi giocatori che in Europa si siano mai visti, che ha lavorato con me, abbiamo lavorato insieme un anno e mezzo a Milano, spendere queste parole nei miei confronti. Che cosa posso dire di più di quello che ho detto? No, basta, niente, perché basta, chiaramente basta. Più di grazie. Basta, no, se no mi viene il diabete. Non conosco parole. Bullo, questa Final Four in casa, Final Four in casa, qualche responsabilità in più c'è? Penso, no? In una stagione come questa, strana, con quello che è successo anche sul fronte societario, insomma, penso sia qualcosa di molto emozionante, tanto per cominciare. Sì, sicuro. Diciamo un evento unico nella storia del mondo Benetton, perché mai il mondo Benetton appunto aveva organizzato una Final Four o una Final Eight o qualcosa del genere in casa propria. Quindi questo va dato merito alla società di aver preso un'iniziativa importante e significativa, anche proprio alla luce di quello che sta a livello di proprietà succedendo. Credo che sia sicuramente meglio giocare in casa che giocare in trasferta questo genere di manifestazioni. Poi se riusciremo a convogliare la grande energia che il pubblico ci darà nella maniera positiva, sarà importante, sarà sicuramente una mossa chiave. Viceversa, dovremo essere bravi a non cercare di essere travolti da quella che è l'aspettativa, da quella che è proprio la necessità di organizzare e non vincere, però chiaramente di avvicinarsi il più possibile a vincere un evento come questo fatto in casa. Sasha, Benetton Siviglia, Kazan Zagabria, come va a finire? Tu prima hai detto Siena vince l'Eurolega, sì, secondo te? Sì, Siena vince l'Eurolega, secondo me. Sì, secondo me, quello l'ho detto a coach Pianigiani 3-4 mesi fa. Cosa ti ha detto? Mi ha detto, tu sempre di qua di là. Io ho detto, guarda, ho sbagliato pronostico di Madrid quando hanno giocato la Final Four solo perché mi si è infortunato Cauquenas, che era la carica importantissima, come lo è ancora adesso, però all'epoca era proprio devastante e non c'era, e quindi gli mancava qualcosa. Benetton Kazan finale, meritata secondo me per tutto quello che hanno fatto. E dico un'altra cosa, siccome Benetton è riuscita a rispondere su un avvio di partita fortissima da parte di Göttingen, che li hanno messo in difficoltà proprio nella maniera di giocare, pressandoli tutto il campo, mettendo quelle triple 6 su 6 prima del primo sbaglio e tutto quello, vincendo anche di qualcosa, Benetton è riuscita con una calma, con una leadership da parte di prima Smith, poi stesso Bulo, di portare quella partita, no? Di vincere quella partita, secondo me sono abbastanza maturi per affrontare anche una Final Four in casa con le stesse aspettative, chissà qualcosa di più. Non sarà facile, non è mai facile nella pallacanestro, nessuna partita ormai lo è, però secondo me c'è anche un ambiente giusto, in senso se sì. Benetton riesce a vincere questa Coppa, secondo me la famiglia non lascia la pallacanestro così facilmente, rimarrà nell'Eurolega, che è il posto giusto per una squadra, una società, una città come Treviso, una squadra come del spessore di Benetton, per tutto quello che ha fatto storicamente. Stesso Bulo come MVP delle tante Final Four anche nel passato, quindi lo può lui sa meglio di tutti cosa vuol dire per Treviso giocare l'Eurolega, poi arrivare anche una Final Four. Quindi secondo me Benetton rimarrà, è un importantissimo segnale, potrebbe essere per tutti in Italia, di ricominciare a investire in pallacanestro. Le responsabilità aumentano, povero capitano. Sì, aumentano, però lui ormai lo sa, adesso lo sa queste. Quindi dovete vincere la Coppa per convincere Benetton a restare. Figurati, non è per quello, ma secondo me loro c'hanno con Repescia e Claudio Coldebella, con tutti quelli che con tutto il staff lavorano bene, giovani ci sono, va via Moteunas, entra Wojciechowski, quindi questo progetto Benetton, no? di sempre pianificare un passo più avanti, c'è, sì, si vede, fanno un gran lavoro, poi c'è un grandissimo Stefan Markovic, l'unico serbo. Ragazzi, io l'ultima cosa che voglio chiedere a Max, ma Coppa benissimo, Europa benissimo, in campionato invece non così bene, anzi malino, se me lo permetti Massimo, sembrate il Milan, vocazione europea o no? Milan mi sembra sia... Lascia stare quest'anno, che poi domani c'è il derby, apriamo altre storie. Però, sai, si dice sempre, anche Gagliani l'altro giorno ha detto, ma i derby che sento di più comunque sono quelli europei, questi di campionato, poca roba. Ma come mai in Europa così bene, ma per tutta la stagione, non solo adesso, e in campionato non così bene, insomma? Ma una domanda che ci siamo fatti tutti, che mi sono fatto spesso, che mi sto facendo tuttora, e alla quale purtroppo non riesco a dare risposta. Non riesco a dare risposta perché in Coppa abbiamo giocato sempre molto bene anche in trasferta, invece in campionato spesso in trasferta giochiamo molto male, indipendentemente dal fatto di vincere o perdere, ecco che insomma è anche una diretta conseguenza, però si può anche magari vincere una partita come a Pedro non giocando benissimo, però fare quelle due o tre cose che ti permettono di vincere. Invece nella stragrande maggioranza delle occasioni abbiamo proprio giocato male, non abbiamo neanche avuto la lontana possibilità di provare a vincere alla fine. Ma cosa dire, sicuramente qualche partita persa all'inizio ha minato un po' le certezze di questo gruppo, un gruppo nuovo, un gruppo sicuramente giovane che si stavano creando, e questo ha creato un po' di sconquassi all'interno dell'organizzazione, un po' all'interno delle nostre teste, all'interno della fiducia che ognuno ha in se stesso e che ha nei confronti dei compagni. Viceversa, in Coppa siamo partiti subito bene e questo ci ha facilitato. Poi, perché la Coppa non è riuscita a trascinare il campionato, non lo so, ecco, però potrei dire come mai il campionato poi non ha trascinato negativamente la Coppa. Sì, no, certo. Diciamo che un aspetto positivo è che sicuramente siamo riusciti a tenere distante l'una dall'altra. E questo ci ha consentito di essere dove siamo in Eurolega, in Eurocup, e comunque con un paio di partite vinte giuste ora da qui alla fine di essere in una buona posizione anche in campionato. Sì. Grazie Massimo, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao. Bullo. Sasha, adesso prima di parlare, c'è Ezio da Bologna, una delle tue città, tra l'altro, Giacomo, provincia di Treviso, sono già in linea, però io voglio farti una domanda da allenatore. Te la faccio dopo il traffico, sentiamo Ezio. Sempre su Siena, ti voglio chiedere poi se Siena vale la pena ricambiare gli equilibri con McCaleb che rientra. Però prima sentiamo gli ascoltatori. Ezio, dica. Pronto? Dica, eccoci. Buongiorno. Buongiorno. No, volevo solo chiedere, a parte non volevo fare la banale battuta, complimenti, ma grazie per la trasmissione di 7:11. Volevo sapere come mai, visto che siamo in due squadre in Final Four, la TV di Stato non si occupi della pallacanestro, una domanda semplice. TV di Stato magari tornerà ad occuparsi della pallacanestro dall'anno prossimo, come lei saprà, La questione dei diritti televisivi è ancora in sospeso attualmente allo stato attuale delle cose. Sky ha lasciato la trattativa e quindi c'è una parte della pallacanestro italiana che non vede l'ora di tornare in Rai, salvo poi magari pentirsene quando le partite andranno in, non lo so, in differita alle 2 di notte. Mi auguro invece che venga trattata coi guanti se davvero finirà sulla televisione di Stato. Mi viene da dire banale questione di diritti e di interessi. Se il basket dovesse tornare in Rai, allora mi auguro che questi diritti e di interessi possano coinvolgere sul serio e da vicino l'emittente di Stato. Detto questo, non saprei che aggiungere. Questioni televisive, pure questioni televisive, secondo me. Prima Coppa dei Campioni italiana, Bologna, finale Simmental Slavia Praga, vince il Simmental 77-72, 21 punti di Vianello, 14 di Bill Bradley, prima Coppa dei Campioni italiana. Ma non ero nato ancora, quindi dai. Come no? Va bene che non hai 75 lo anni? No, ragazzi, sbaglio, sembro no? Così, ma... Senti, Giacomo, provincia di Treviso, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Ecco. Beh, tifoso e abbonato della Benetton, ma grande amante della pallacanestro, perciò volevo complimentarmi con Siena per quello che hanno fatto. Sì. Finalmente la squadra italiana ritorna alle Final Four e credo, per tutto il movimento, credo che sia molto importante. Sì. Però volevo dire grazie alla Benetton, soprattutto ai giocatori, perché l'altra sera ci hanno regalato un qualcosa che oserei dire qualcosa come i vecchi tempi. Ho visto in campo anche negli spalti un clima che sicuramente credo che possa far bene per il prosieguo di questa società. Sì. Mi dispiace che non ci sia più il Bullo, perché volevo fargli complimenti, perché effettivamente l'altra sera lui e Markovic hanno letteralmente azzerato la squadra tedesca, sicuramente con l'aiuto di Smith, però loro due sono stati veramente grandi e da molto tempo non vedevo comunque il doppio play in campo giocare a questi livelli. Speriamo bene, in bocca al lupo per tutti. Cosa dici, Sasha? No, ma doppio play è la chiave di tutte le coppe, tutte le finali, sempre stato il controllo della palla, parte. Uno che sei di parte, certo, uno che è offensivamente più portato, l'altro difensivamente, è una complicità perfetta. Quello che, non so, Bullo e Garris all'epoca, con me o qualsiasi altro play con Bullo, è sempre no? Edny Bullo. Cioè Bullo con qualsiasi altro play è perfetto, perché Bullo diventa Bullo lì, perché ha la palla nelle mani, può andare, rompere, è aggressivo, e quindi è Bullo. Le migliori partite, la sua carriera è segnata da parte di questo. Pozzecco Buleri, Basile Buleri nella nazionale, ripeto, quella nel Milano, anche quella del Benetton legata a Buleri, grande teatro. Edney Buleri Pittis, anche che non Pittis, era, sì, non, sì, era un playmaker, non lo volevo dire, ma giocava uno con la testa da playmaker, assolutamente, che teneva tutta la difesa e lasciava le bravate al talento, sì, di Bullo, sì, di, sì, esplodere l'altra parte del campo. Avendo quelle gambe che aveva Bullo e che ce le ha ancora, per fortuna, poteva esprimere la sua miglior pallacanestro, che è proprio questa qua. Flavio Tranquillo, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao Flavio, unisciti. Ciao Flavio. Unisciti alla festa, Flavio. Unisciti alla festa che stiamo facendo per Treviso e per Siena, naturalmente. Ragazzi, io volevo farvi una domanda tecnica a Flavio e a Sasha Giorgevic, che è questa, su Siena. Siena ha trovato questa serie indimenticabile, ha trovato tra le tante imprese anche quella di equilibri nuovi con Erston e con Iaric, che sono stati i protagonisti assoluti di questa serie. Ora rientra McCaleb. Siena dovrà cambiare pelle di nuovo, oppure McCaleb dovrà adattarsi ad un ruolo da giocatore di rottura? Secondo te, Flavio? Ma secondo me è una domanda più che lecita, più che logica, però onestamente, se tu pensi in che contesto si gioca, è una domanda che forse viene superata dal contesto stesso. Voglio dire, si gioca 40 minuti dentro o fuori, non c'è la possibilità di trovare un nuovo equilibrio. Io penso che sarà molto difficile per Pianigiani riuscire a gestire McCaleb, che è stato l'MVP del campionato fin quando ha giocato, e anche l'uomo della prima davvero accelerata in Eurolega, Iaric, che nelle ultime tre partite è stato a dir poco fondamentale, e Zizis, che è quello che meglio di tutti e tre sa giocare in quel tipo di contesto, più tutti gli altri. Però ripeto, non è che c'è da trovare un equilibrio, c'è da trovare la miglior soluzione lì, in quel momento. Potrebbe essere 40 minuti McCaleb e 0-0 Zizis e l'altro se in quel momento funziona, perché proprio se fosse una serie di playoff è una cosa, ma una partita secca è un'altra. Ma sono d'accordo con Flavio, aggiungerei un'altra cosa. Secondo me non è che solo Pianigiani va a lavorare su questo aspetto di tranquillizzare uno o l'altro che sarà sicuramente messo in campo con meno minuti. In che senso? Un Jaric, un certo Marco Jaric, non ha giocato la finale della Coppa Italia, cioè non era neanche nel 12, vero? Cosa vuol dire? La forza della società che anche sta dietro alcune scelte, quindi fatte insieme, si spiega ai giocatori, si lavora con loro prima, a prescindere dal ruolo che Pianigiani possa, leggendo qualsiasi partita, possa prendere per alcun giocatore, gli si prepara o lo si prepara quel giocatore, tal giocatore, per ruolo che andrà a prendere in una o un'altra partita dentro o fuori. Quindi questa forza di tenere 14-15 giocatori sempre pronti a scambiarsi i ruoli e a fare i gregari del turno, diciamo, se un Jaric si può mettere il cuore in pace in una finale della Coppa Italia e giocare in questa maniera questa eliminatoria, sì. O tale Bome Cale che lo vediamo in panchina che dà 5 a tutti quanti giocando sì, 5 sì, minuti sì, con un sfondamento preso, quindi vuol dire che la società funziona. Anzi, il lavoro per Pianigiani è facilissimo, facilissimo assolutamente no, però in quella maniera si aiutano a vicenda con la società e sicuramente con la maturità dei giocatori che sanno dove sono capitati. Cosa vuol dire giocare per Siena? Giocare quelle partite per Siena e quindi aspettare il suo momento come Hairston, aspettare il suo momento come Moss, aspettare il suo momento come Bome Cale o aspettare il suo momento come Marco Jaric. Quindi è una completamente... ci sono luci di riflettori per ciascuno di loro in alcun momento della stagione e ognuno di loro si sente il più importante in qualsiasi loro qualsiasi momento, quindi anche in panchina. È la caratteristica delle grandi squadre assolutamente. Peace and love come direbbe Leonardo. Saluto Thomas Ress. Ciao Thomas. Ciao Thomas. Stavamo parlando di voi. Guarda un po', che strano, strano. Ti faccio fare una domanda da Flavio Tranquillo. Vai Flavio. Ma più che la domanda, i complimenti. Hanno fatto una cosa grandissima. Non posso che chiedergli se c'è un qualche cosa che lui abbia sentito o abbia realizzato dopo che sia scattato tra gara 1 e gara 2, la prima domanda, che noi da fuori ovviamente non possiamo percepire, e la seconda, se onestamente l'Olympiakos gli è parso da dentro il campo incapace di mettere la metà dell'intensità che ci mettevate voi, come è sembrato a noi stando davanti alla televisione. Tra gara 1 e gara 2 l'unica cosa che era nel nostro cervello è la vendetta, riscatto in tutte le maniere. Non eravamo la Siena di tutto l'anno, diciamo, in quella gara 1, e hanno fatto vedere la vera Siena nelle ultime tre partite. Questa è la vera Siena, questo siamo noi. Già in gara 1 secondo me si era visto che l'unica cosa non era questo, diciamo, dopo gara 1 si è visto che hanno dominato, però, e non erano così forti come magari poteva essere stato il Panathinaikos di qualche anno fa o il CSK Mosca. Sapevamo che in gara 1 non avevano fatto niente, c'era assoluto tavola rasa, per questo sapevamo che da lì si poteva solo che far meglio, e ovviamente abbiamo fatto vedere che avevamo più voglia di loro di arrivare a queste Final Four. E forse loro si sono anche seduti un po' sugli allori dopo gara 1 pensando che era già finita. Invece io ho messo la testa a posto. Vedere che ha ragione Sasha Giorgi, dice che ha fatto appoggio, che aveva programmato. Sì, assolutamente. Poi aggiungerei un'altra cosa. Non so se adesso. Io la gara 1 non la guardavo neanche, perché intanto non c'era niente da vedere. Quindi, però vedendo la gara 2 e la mossa tattica da parte di Simone Pianigiani, che ha messo quella zona col cambi su ogni pick and roll, con qualsiasi cosa che Siena aveva fatto, ha messo in tantissima confusione la squadra greca, non trovarono soluzioni in attacco, e dall'altra parte dava una sicurezza ai giocatori di Siena dicendo abbiamo la chiave per questi qua, non sanno come reagire, abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo messo una cosa che funziona, e siccome aveva funzionato lì hanno continuato con il loro gioco, usando un po' di questa zona in questa partita 3 e partita 4, non tanto, però nella seconda ho visto tanto di questa zona coi cambi, che Thomas ci può dire è stata inventata lì o è una loro cosa che fanno spesso? No, avevamo già in programma avevamo già programmato di fare questa zona su certi loro schemi, soprattutto quando si faceva il passaggio in ala e poi il playmaker prendeva il blocco dal piccolo per andare magari sotto canestro, lì dove si doveva cambiare e andare a zona. L'unica cosa che veramente ha funzionato in gara 1 era la zona, abbiamo messo in difficoltà e da lì c'è magari venuto l'idea di farla un po' più spesso, infatti ha funzionato, è stato bravo Simone magari nelle fasi più importanti della partita per spezzarli il loro ritmo, magari quando recuperavano qualche punto e mettere subito la zona per metterli in panico, anche perché loro giocavano molto pick and roll nel centro, facendo una zona dispari 3-2, questa cosa gliela togli praticamente. Sì, passata la paura, hanno trovato quella chiave tattica ed è passata, come diceva lui. Ma sono stati bravi loro, i giocatori hanno reagito in una maniera incredibile dopo la partita 1, veramente chapeau, veramente una cosa straordinaria. Grazie Thomas, grazie. Niente, grazie a voi. Flavio, il Barça a casa però notizione, per chiudere. Sì, sicuramente è una notizia, però quando trovi la squadra più forte vai a casa anche se sei molto forte. Hanno trovato in questo momento la più forte, un cubo di granito, una cosa incredibile. Panathinaikos ha fatto un'impresa che è veramente simile a quella di Siena. Quella di Siena è diversa perché ha dei contorni senza precedenti, però Panathinaikos ha giocato 4 partite di una compattezza, di una solidità, di una continuità, di un'applicazione bestiale. Mamma mia. Sono d'accordo. Grazie Flavio, alla Saluti. Prossima. Ciao Flavio. Senti Sasha, tu devi tornare la prossima volta per raccontarci cosa ci facevi in un monastero vestito da frate. No, ma lo scopriranno i telespettatori di Eurosport. Fra qualche giorno monteranno questa storia. Non vedo l'ora, così ti vado avanti a prenderti in giro per 10 anni. Va bene. Io intanto mi sono messo lì, poi era una storia da vedere. Da lì sono partito per Treviso, diciamo. E poi per Hollywood. Su un asino. Attenzione. Grazie Sasha, alla prossima. A voi. Franco Piattarini in redazione, Pietro Lacorte in regia. Ci sentiamo con lo sport alle 5 alle 6.